Anch'io. Quando ti sto arrivando, guarda un po', ho cambiato l'antenna. 1, 2, 3, prova. Prova un po'. 1, 2, 3, prova. Si segnale quasi 9, sì, 8 e mezzo. Solo, cazzo, sono le 10. Brrr, il cane è morto, mi sì. Anzi, questo parecchio è generoso. La verità dice di comunque non sei al mondo, sei giù. Ehi, vabbè. Tu sei in salita e sono in discesa, mi dovresti prendere di più. Vabbè, comunque mi ascolti bene, sì. Ho voglia che ti ascolto bene. Solo che non riesco a trarla bene bene questa antenna. Vabbè, qua ce l'ho a 1 e 1 del 10, però a 40 mi servono a 1 e 5. La boomerang è grande, ho quella 2,70 m. Perché devi fare la regolazione sul canale 20, se no per le stazioni è... come si deve. Devi farla sul 20 per le... Se c'è 200 canali devi farla su 40. Ciucca. Prego un po'. Prova. Aspetta che mi ascolto il messaggio. Ascolta, fammi sapere. Se capì? Casarella! Attenzione, il canale 10, c'è qualcuno? Avanti. Adesso 10, avanti. Attento 10. C'è qualcuno su 10? Hola? Avanti, chi è? Come ascolti, ciao, baracchino della guerra. Baracchino della guerra, ciao Roberto. No, io ti ascolto bene. Che baracchino stai usando? Un Puni 23 canali base, ho beccato questo bello, nuovo, ho trovato uno, se l'aveva, e l'ho preso al volo, bellissimo, nuovo, con l'orologio, tutto in alluminio, nuovo. Sì, lo conosco, un Puni 6 canali. 23 canali, stazione base, c'ha una scala dei canali tipo lo stereo della macchina, la scala graduata, i canali sono su una scala graduata. Ho capito, da fuori l'hai preso? No, a Sassari, un amico ce l'aveva, ha detto, mi sono questa roba, perché appena l'ho vista io, pronti. È fatto bene che l'hai preso, dai, il Puni è bello, c'è quello cromato che dico io. Ma non è quello classico, tutti si confondono, questo io non l'ho mai visto, già. Come si chiama? C'ha l'orologio digitale con i numeri che girano, ci sono anche i secondi che girano, è bellissimo, c'ha il coso, l'allarme, eccetera, il timer per farlo funzionare, i canali alfa, c'ha il coso, solo AM, però ti posso dire che è una bella radio, mi è piaciuto subito, sembra un amplificatore per casa. È interessante che si è tenuto bene, io sono un po' pignolo, anche quando prendo vintage, da come essere per finti, se no... Se sono tutti graffiati non mi piace. Ah, secondo me questo non ha mai lavorato, o se ha lavorato è pochissimo, ci sono i casi lucidi dietro dove c'è il fusibile, non è radio, secondo me rimasta, non so far confermare neanche che cos'era quello che me l'ha venduto, come vende altre cose, e mi ha detto guarda, mi ha dato questa roba qua, non so neanche se funziona, l'ho acceso e funziona subito. E com'è la radio, si sente? Sì, ci potresti mettere un amplificato, è una radio normale, Roberto, non è che sia niente di cosa, però... Vabbè, ci puoi mettere un amplificato lì e va la grande, quello lì schia forte. Ce n'era anche un altro che andava molto bene, il coso, non l'Inter. Ce n'era un altro di stazione base che era un bel forte come radio, ce l'aveva il gommista del portatore, quando c'era il portatore diceva mi passa lì che ho buttato i chiodi così puoi venire da me. Quello che c'è bene è lo stesso, il faccia che ho io, è tipo questo, è in alluminio, tutto in alluminio, però quello c'ha, il faccia c'ha le bande laterali e c'ha l'orologio sul display, diciamo, a LED. Queste invece sono dei numeri, tipo le radiosveglie antiche che girano, ci sono i secondi, è bello per quello, e poi c'è l'orario d'accensione e di spegnimento, puoi impostare, è più piccolo del faccia, però è tipo un po' più grande di un 440, dai, di larghezza, è un po' più basso, tutto il fronte in alluminio. La cosa più bella che c'ha questa scala dei canali, c'è presente tu lo stereo delle macchine a cordicella che c'è la frequenza che ti appare, ma questo è così, i canali scorrono su da 1 a 23, poi c'è il tasto rosso che è il modulo, una luce rossa che è il modulometro, e c'è una luce rossa e un'altra verde che c'è il ricettore e trasmissione quando schiacci. Sì, ho capito come con la lancetta che scorre, dai. C'è la lancetta che scorre, ma non l'avevo mai visto davvero, sempre in fotografia ti posso dire che non è brutto, è bellino. E tutto poi, quando le radio sono robuste, fatte bene, in alluminio, poi lateralmente c'è l'attacco per attaccare e appoggiare il microfono con la specie di guida che ti metti in macchina, li hai mai visti i camionisti? Proprio fatto apposta. Poi dietro c'è il parlascolto e poi c'è la cosa, meno male che ce l'aveva, se no era un problema collegarlo. Non è il classico cavo di tutti i baracchini, c'è una specie di coso grosso, di connettore, ci sono sei poli con dei jack piccolini, tutto per collegarlo, meno male ce l'aveva. Poi mi ha dato le cuffie, il microfono originale, delle cuffie antiche, vintage, sempre di questo baracchino, e più mi ha dato un rosmetro, wattmetro, asasci con il cavo, nuovo nuovo quello lì. Piccolino, però è bello, dai. Non modulava questo qua, no? Come? Modulava questo tipo che te l'ha dato, no? O me l'hanno dato anche a lui? Come? Sto ancora aspettando la foto del jack. E ti ho detto che è quello, ciao Fla. No, non modulava già. Un amico suo ce l'aveva, invece l'ha ritirato, che questo ritira roba, applicatori, casse e cose del genere, gli hanno dato questo. Ha detto, mi hanno dato questo, non ne capisce niente, lui mi ha detto, il barile sembra un baracchino, però mi ha detto, non so neanche se funziona. Non ha nessuna. È uguale a quello già, è Clay Jack, comunque, A5. Uguale al microfono a tavolo che ho io, Vabbè, no, io ho il microfono a tavolo di quella radio. Vabbè, ci aggiorniamo telefonicamente. Ciao Gianni, mi sto spostando al 20, ciao a tutti. Io. Ciao. E forse sono anche io con un microfono a 5 puli. Ce ne presente già come sono questi connettori? Sono quelli delle casse stereo, degli amplificatori, dei radioni, non dei radioni, di quelli stereo di selezione, per i quelli che c'erano con le stesse spine a 5 puli sotto di tutti. Sì, quelli tondi, sì, me li ricordo. Che sono tondi con l'attacco femmina, forse nello spinotto. A volte c'erano femmine, a volte erano maschi. Come quelli della Real Vigere, quelli delle casse, sì, ho capito quali sono. C'è questo qui, non devi abitare niente, infili direttamente e cosa, sta guardando su internet, è quotato questo baracchino, non è. E poi qua la potenza che sta dando, non so per quale motivo mi segna 8 watt. Magari li dà anche, magari li dà pure, perché in base prima li facevano che davano più watt, tipo il Galaxy che ne dà 10, no, ne dà 9, dai, veramente, dalla casa. Poi se vuoi lo puoi portare anche a 15, anche a 16 a volte, ma non conviene, come lasciarlo come. Comunque questo è giapponese, infatti c'è scritto Made in Japan questo baracchino, ma è bellino perché non è troppo alto rispetto agli altri che sono i Royce e questo è di larghezza un po' più lungo più largo del 440, però è più basso, no, ti posso dire, non è male come cosa, mi piace. Vai Luca. Luca chi? Qui stiamo facendo i gambidoni, Luca deve essere Luca Manicù. Il segnale quanto è già di questo? Cosa? Il segnale quanto arrivo? Prova che guardo con gli occhiali. 1, 2, 3, prova radio, attenzione, prova radio, canale 10. 9, 25, sì. E quindi già arriva, no? Io pensavo che magari non arrivassi con questo, che fosse intorno ai 9 o 3 e mezzo. No, 9, 25. No, vabbè, che di lusso. Ma sente bene anche come radio, lo sai, sta un altoparlante interno, non ho capito da dove ce l'ha, di fianco ce l'ha, e si sente abbastanza bene, dai. Ma non è mai stato aperto perché ci sono ancora i sigilli di questo baracchino. Lo so, ce ne sono tanti che sono magari posto di maggiori di magazzino, roba del genere. Ma ascolta, quello che c'era, tu che sei in mezzo alle casse e tutte queste cose musicali, quello che c'era in via Nizza, l'ha aperto da qualche altra parte o non esiste più? No, ha chiuso a Enzo, sta dicendo, è assoluto, no, ha chiuso da tanti anni, si sta occupando di altre cose, da tanti anni. Kappa, io li compravo un po' di roba, dischi in vinile, i dischi del jukebox, gli ultimi usciti, perché nel jukebox ne mandano due, tre, capito? E magari loro ne tengono uno e gli altri li danno, li vendono, me l'ha spiegato. Infatti c'ho i dischi del jukebox praticamente degli ultimi usciti, le ultime canzoni uscite che mi danno. Poi dice la ragazza, tutta la cantina, mette qua, se vuoi andare a scegliere qualche nuovo che ti piace, te li do una fesseria, perché me li ha tutti bagnati, sono tutti allagati. Siamo andati in casa, adesso non conosciamo da tanti anni, io sono mio fratello, tra l'altro, tutta la famiglia, la moglie, ci conosciamo da bambini, i fratelli, ci conosciamo molto bene. Così, no, sta facendo altre cose. Comunque, se vuoi dischi, anche a prezzi ragionevoli, in Viale Dante, l'hai visto, c'è la videoteca? Sì. Lì, quello lì ha chiuso l'attività come videoteca, però tutti i DVD che c'erano e tutte le cose che aveva, diciamo, le sta svendendo a poco prezzo. In più ci ha preso dischi, si sta puntando sul vinile, ha preso una marea di dischi e poi sta vendendo anche casse, amplificatori, sintonizzatori, registratori a cassetta, sta vendendo un po' di tutto. Ci sono andato ieri e ti posso dire che cose carine. Io adesso l'ultimo acquisto che ho fatto è una cassa amplificata. Di quelle che si può cantare eccetera eccetera a 3.000 watt e 3.000 non 3.000 quasi dicevo 300 watt e bellina di quelle che si illuminano che puoi fare karaoke diciamo che funziona col bluetooth te la puoi portare in giro alle feste e cose e mi è piaciuta però se l'ho comprata. Sì, adesso anche io un'altra, una di quelle torri, stai dicendo che si può mettere le primine, attaccare i microfoni, da un sacco di effetti. L'ho presa, io l'ho beccata, ha preso quasi a regalo al 50% di sconto da Conforama, perché c'aveva un difetto. Ce n'era solo uno, ha detto, guardi, senza garanzia, l'ha attaccato al volo. Costava, non mi ricordo quanto, io l'ho pagata a fare 100 euro, ma costava 250, perché è bella grossa questa. E alta 1,50 m, sto parlando di grossi, ma alta è più grossa. Lo so che tocca un bel... Allora io praticamente in testa della meridiana vicino a casa c'era una greppa di ragazzine che l'accendevano, si sentiva da casa, c'era una cosa allucinante. E un giorno gliel'ho chiesto dove l'avevano presa, mi hanno indicato questa ragazza che vendeva tutta questa roba, c'ha un cosa dove vende su internet, un negozio virtuale, dove vende di tutto e di più. Praticamente l'ho interpellata, questa qua ce l'aveva una da 2000 watt, l'ho interpellata e mi ha detto di sì, che però devo fare il bonifico prima, ho detto, allora ascolta, io bonifico non le faccio, se me la mandi quando arriva te la pago, va bene. Dice, vabbè, te la posso anticipare i soldi, io poi mi ridai quando arriva. Va bene, ok, siamo messi d'accordo così, l'ho telefonato. Questa qua è una qua. L'ho telefonato e mi ha detto, guarda, sta per arrivare, è già in viaggio, a giorni arriva. Poi il giorno dopo mi manda un messaggio e mi dice, no, non è più possibile prenderla perché io non ho i soldi, ho avuto delle spese, quindi non te la posso prendere, devi pagarla come tutti gli altri col bonifico. Ce l'ho fatta in quel paese, ti prometto una cosa da me di tu altro. Vabbè, bisogna stare attenti a queste cose. Poi qualche cosa non mi quadrava, perché prima mi ha detto che stava arrivando e poi mi ha detto che non gliela mandava se non l'aveva subito. Mi ha detto, ascolta, deciditi cosa devi dire, perché non sai dire manco le balle. Bisogna stare attenti a ritagliare. E allora me la sono ordinata da internet. L'ho presa da internet, è bellina, della Brin, pare. Brizio, non me lo ricordo il nome, ma comunque è conosciuta come male. No, io l'ho presa a Conforama, ma ce n'erano tutti i tipi, e l'ho presa perché il prezzo era regalato, perché c'è questa cosa. poi c'ha tutti quegli effetti tipo di corsecca, luci, gli altoparlanti si illuminano. Sì, sì, anche questa qua, si illumina tutta qua. E vedi, ma quella funziona anche senza Bluetooth, Robè? No, allora, questa la puoi far funzionare con Bluetooth, si può attaccare l'impianto stereo perché c'è come un qualsiasi amplificatore, qui c'è la funzione Bluetooth, poi c'è tutti gli effetti speciali, ecco, una manacimaria di cose, c'hai i CD sopra, quando metti i CD per dire, puoi screciare, c'hai i piatti, non so se ti trovava. Ah, sì, sì. Questa qua è tutto, 23, CD, pennina, non so quanto, poi puoi collegarlo al telefono, puoi fare un sacco di roba. Ormai sono più o meno tutte uguali. Non è che l'abbia usata, l'ho usata poche volte, l'ho presa perché sono appassionato. Poi questo Natale mi sono regalato la console, quelle nuove, cioè già ne dice le nuove, perché sono già delle due, invece a vedere come ho trovato un tipo su internet, uno di Canalità d'Italia, di quattro, non lo so, poi sono diventati amici, me l'ha mandata dalla Samsung, quella bellina, posso dire, c'ha già il monitor incorporato, perché col monitor è l'unica, adesso le stanno facendo anche col monitor, non c'è bisogno di attaccare al computer, c'ha il monitor, il display, e qui tu ti vedi tutte le tracce, tutte le funzioni senza attaccare al computer. Ho avuto una bella occasione e l'ho presa. Poi non vedo di tempo malato, non beh, io me l'ho regalato per il compleanno, mi sono fatto un regalo. Ho detto adesso me la prendo, mi piace. Solo che poi l'appartamento non lo puoi usare come vuoi tu, quella lì, va bene, quando fai le feste, che adesso non si possono più fare gli assembramenti, quindi si poteva manco bene. E a Capodanno così, quando vuoi cantare con gli amici e cose, quello già va bene. Abbiamo cantato lo stesso, anche col televisore abbiamo cantato, prendevamo le canzoni da YouTube e cantevamo. Abbiamo cantato a Capodanno l'anno scorso. E poi me l'aveva dato un'amica, la figlia di un amico mio, mi ha dato, anche non mi ricordo come me l'aveva dato, sono un karaoke professionale, quelli che usano per fare le feste, come questa faceva le serate e tutto quanto. Le fa ancora le speranze e aveva cambiato il sistema e mi ha dato il karaoke, e una specie di console che ci sono le schede così con le canzoni tutto quanto, e la collega direttamente al monitor dove vuoi tu, però è bella perché c'è un display piccolino che appare tutto e di lui aveva dato, non ricordo come l'avevo dato a regalo, ma l'ha dato. E poi magari le lasci da fare, poi intanto sai che ce l'hai e al momento opportuno la togli fuori quando ti serve. È bello averle queste cose, poi vabbè, c'è la mia compagna che ha le casse professionali anche, di quelle che hanno anche il piedistallo per cantare col karaoke, e ce li ho a casa, capito, però avere tutte queste cose e poi poterle usare è un casino, a lei piace molto cantare. Io avevamo usato a Patamona tanti anni fa con gli amici di Tocquanto un paio di volte, due o tre volte, però ma non è che me ne ha fatto nulla, era a regalo me l'ha data, ma se voglio fare cose, feste, amplificatori, casse, mix, qualunque cosa posso fare, non mi manca niente. Vedi, io il mixer lo sai dove ce l'avevo nell'impianto stereo, lo usavo solo come amplificatore per il piatto soli che c'ho, perché va in aux e poi va amplificato, cioè attacca aux, si attacca l'amplificatore. Io usavo questo, come si chiama, lo usavo solo per il piatto, capito, non lo usavo come mixer. Poi mi è partito, si è bruciato, non c'è stato più nulla da fare, l'ho preso, l'ho fatto vedere a un tecnico, ma te l'ho avuta, ce l'ho via, comprata roba, ma non c'è più, non era grossissimo, era roba, mi pare che aveva 12 canali, qualcosa del genere. No, mixer già ne ho tanti, io lo stesso, se ne ho roba di altissimo valore, e poi quello che utilizzo normalmente dove c'ho il 1200 è un DAW, la distorsetta, non bello, però c'è un suono da paura, bellissimo di qualità, poi c'ho uno della LEM, professionale, un altro della JBL, e poi ne ho uno della Monarch, un altro piccolo, vabbè non è piccolo, però quello con tutti gli effetti ecco, tutte le malassurde, vabbè più che altro per divertirlo, ma si può dire l'ho usato una volta. Quello che uso sempre è quello della DAW, che è un bel mix, bello da rete, in nero, con tutti i led belli grossi, equalizzatori, tantissimo. Ehi, ehi. sto bene, anche la state chiudendo voi. Cos'è? Ho detto anche la state chiudendo la porta. Adesso è un quarto vado via. Ah, perfetto, cavolo, pensavo che fosse più tardi, invece sono le 7 meno un quarto, ma è strano, come sia. Ho capito. E vabbè, voi fate anche presto, fate. Sì, noi abbiamo il pomeriggio alle 2:30, la mattina dalle 8. Le 2:30 non è stressante, devi mangiare sanguglione così, no? Meno male che io abito vicino, cacchio. Però uno che si fanno la digestione, cacchio. Io dopo pranzo ho 4 ore di coso, di rilassamento me lo prendo, ma la digestione non è l'ideale, rilassarsi appena mangiato e poi tutto lavorare. Quello è vero. Quello è vero. Dicono sempre che è preferibile mangiare prima che la sera per avere il tempo di digerire. Invece io mangiare presto non ce la faccio, perché se mangio presto poi tardi mi viene di nuovo fame. Mangio sempre verso le 8, 8 e mezza, dai. A volte alle 8 e mezza porto il cane e mangio anche alle 9. Dipende, però diciamo che in linea di massima mangio a quell'ora lì. Un attimo il telefono già. Sì. Oh, dimmi già. Sì, sì. Oh, Gianni. Sì, ci sono, ci sono. Cacca, non sono abituato, quanto non mi piacciono questi microfoni da palmo, sono una cagata, comodissimo, io sono abituato a usare il microfono da tavolo, ma con questi non riesco a... Ma la voce è molto bassa e ho normale, a parte dico che non è abituato. Diciamo che è un po' bassina, non è tanto alta, però alzando il volume ti sento bene. Adesso vabbè c'è anche il volume basso. No, ma dico, non è nasina con questo microfono, questo è un bel ricco, questo baracchino, magari il microfono, questo è del 70, 71, stavo guardando l'età, per cui questo c'ha quanti anni va, quasi 50 anni addosso. Sono uscito di radio. Prova a parlare adesso, che ha dato quel volume. Attenzione, canale 10, prova a radio, questo è un Puni, 23 canali, anni 70. No, vabbè, va benissimo, è 5 la radio, perfetta, limpida, bella. Ma ci potresti mettere qualche amplificato? Io invece sono al contrario, non li sopporto molto i microfoni di quelli da tavolo, perché io solitamente muto con i cazzo, quindi mi serve il microfono allungato, ma allungando il braccio ce la faccio tranquillamente anche con il microfono da tavolo, però adesso per via sono col microfono da tavolo. Però preferisco gli altri. Vabbè, tu sei abituato in macchina e cose, io no. Infatti non ne ho mai messo, mi l'avevo nel camper per un periodo, ma non l'ho portato subito. Però nuovo nuovo, me l'aveva regalato Salvatore, mai tale. Nuovo nuovo, ce l'aveva nel furgone lui, l'aveva usato anche lui poche volte. Mi ha detto, ti dai, ma anche l'antenna magnetica. L'antenna magnetica ce l'ho qua a casa. Nella stazione radio dove c'è un ricevitore per la FM, piccolino, una radio, e mi ha attaccato a quello. Sì, sì. Macchina io l'ho intenzionato a mettere a farmi l'impianto, però poi ho detto, cavolo, tocca bucarla, farla, la macchina è nuova, non ho voluto toccare, dai, un minimo impianto ce l'ho. C'ho praticamente un baracchino portatile col microfonino, un'antenna a base magnetica con la tubo 2001 su base magnetica, modulo così quando ne ho voglia, dai, già mi ascoltano lo stesso. Già lo so. Solo che adesso lo devo lasciare, già ci sentiamo magari in un'altra occasione, dai, che devo fare cosa, devo uscire, dai. Ciao, saluto anche gli eventuali tuoi amici in ascolto, già avrò modo di risentire. Ciao ciao, un cuore da parte mia. Ciao Robert, ciao, buona uscita, non andare in mezzo a tanta gente. Non ti preoccupare. Ciao ciao. Ciao ciao Robert. Ho l'attenzione. Sì, avanti. Ho l'attenzione se mi copi. Sì, avanti, che? Oh, buonasera, se c'è altra compagnia nella ruota, dai. Da questa parte è Mandarino. Mandarino, buonasera. Dove stiamo volando? da dove sto modulando sono in via Rockefeller. Ah, sulla faccia, vai. E io. Ah, che cazzo, vai. Bene. Ma niente, qua Lima Delta. Buonasera, Pia Muscolo. Oh, scusa, attenzione all'amico, ma sei solo oppure c'è qualcuno? No, negativo, solo. Mandarino. Eia. Ma come senti? No, sembra come mancata la voce. Ah, manca la voce, sì, non mi ascolti. No, ma adesso ti sto sentendo forte però, eh? Perché ho preso la discesa, sono in macchina, capito? Quando scendo con la macchina aumenta di più il watt. Ah, ho capito, ma è importante che ti funzionino bene i freni, eh? Sì, già funziona, sto scendo a Portamona, quindi. Ah, giù con preso. Sei già a Portamona, mi hai detto? No, no, sto scendendo a Portamona. Ah, ebbene. Allora, ascolta, quando sei lì al mare, approfitta a farti un bagno da parte mia, allora. Va bene, ci penso, dai, ciao, ciao. Dimmi il tuo nominativo, scusa. Dimmi. Buonasera. Allora, buona. E all'ombra, all'ombra. Ciao Gianni. Ehi, ciao. Non so con chi sei perché ero in un altro canale girato adesso. C'era Mandarino, non so se, se lo ascolti, dai. Avanti Mandarino. Ehi, sono sempre qua. Già ho copiato l'amico, ho copiato. Santiago 7, Radio 5, Mandarino. Da dove Mandarino? Sempre in via Rockefeller, parte alta. Sì, sì, già vivi abbastanza bene, dai. Santiago di 7, la Radio 5, buonasera. Ben sentito. Avanti Tino di nuovo. Ecco. Avanti Breco, facciamo girare così almeno non blocchiamo, avanti. Buonasera signor Muscolo, buonasera al doppio. Lubroffetta qua, un attimo. Ciao già, Lubroffetta, ciao, ciao. E beh Gianni, buonasera. No, ho dato la benedizione, aspetta un attimo. Aspetta che cambia radio, eh. Deve essere una chiamata al telefono, forse. Avanti Mandarino, cosa ci dici? Cosa ci racconti di bello? Ehi, ti dico adesso che ti chiedo, volevo sapere. Vai, sono non lo so, però lo conosco come nome. Ti ha schiacciato il dito, forse non si è accorto che stavi parlando. Rifai il passaggio perché non ti ho sentito. Ehi, a te rifaccio la domanda, volevo sentire a Roberto che non l'ho più sentito, non so se lo conosci. Roberto c'era anche stasera, con me stava parlando, sino verso le 7, così poi ha chiuso. E allora se lo saluti, se lo senti, me lo saluti, perché io non l'ho più contattato e non ho potuto sentirlo. Magari lo senti prima di me e niente, saluti da Mandarino, le dici, eh. Capito? Scappa, ce l'ha fatta, senza ombra di dubbio, dai, non c'è problema. Sì, c'è anche stasera, stavo parlando di casse, tutta roba stereo, eccetera, eccetera. Ho capito, anche perché adesso fra qualche minuto devo chiudere, cioè ti devo lasciare perché ho degli impegni. Magari se riesco è possibile che ci sentiamo dopo. Aspettare, prendo io aereo, fare cosa al PC. È un numero delle mie, quindi dopo magari non sono attento al discorso. Ah, ti rilancio il mic e rimango con Rix. Beh, riprendi già, ciao. E ciao, ti lo concludisci. Avanti, Mandarino. Stavo dicendo che adesso devo andare via perché ho degli impegni. Casomai è possibile che ci sentiamo più tardi. Ok? Fra un'oretta, non so. Ok, va bene, dai, no, io dopo non accendo più, io alle 8 vado, porto il cane e poi quando salgo a casa mi guardo il televisore, non ne accendo più male. Vabbè, non so se ci sarà qualche un altro, magari. Ci sentiamo, buona serata, e buon tutto, dai. Mi ha fatto piacere fare questo piccolo question con te. Avanti, Tino, per i saluti e poi io chiudo, tanto non c'è nessuno. Sì, dai, ciao ciao, scusate, ma sono impegnato con un'email, quindi devo andare. Ciao Gianni, ciao Mandarino, ciao, ci sentiamo stasera, più tardi. Ciao ciao. Doppio, ci sei ancora? Andiamo e andiamo, cata! Ferru. Mi sono arrivato adesso a casa. Arvizzo? Io mi ho acceso adesso. Ho acceso. E via. Devo controllare la PlayStation. Una PlayStation guata da nell'altro. E la porta USB, la porta HDMI rotta, c'ha. Ma io la riparo. Ah, quindi mi si vedesce. Il pezzo ci vuole. E beh. Provato. Non c'è nessuno. No, ho acceso poco fa, ecco, ho fatto un paio di passaggi, eccetera, eccetera. Ah, ma per buco. Io non vedo nessuno, beh. Tutti spariti. Allora, ah, che bello, c'è un caldo qua a casa. Allora, sai come ti è caldo da casa? Eh? Ma siccome la mia casa è piccola, attendo la cucina, io ho il caldo dentro l'appartamento. La cucina? Allora. La correnti? Oh, la cucina a gas, attendo dopo il ridomanno e assai non che caldo. Capito? Io ho un appartamento un po' particolare. Un giorno viene a casa, faccio vedere, ci beviamo una birretta. Ah, praticamente io sopra, ho il soppalco, capito, e dove dormiamo noi, abbiamo la camera da letto e giù c'è la cucina. È tipo monolocale, dai. E quando accendo la cucina, la notte, accendo il fornello grande per riscaldarmi, accendo la cucina e ci sta bene. Ho capito. Ehi, ma tanta gente lo fa comunque. Se vai a casa minore, sì. Gappa. Andiamo a fare la cosa. La stufa, se poco la stufa si incendia tutti, no? Perché scalda subito. Però accendi il fornello grande, entra l'aria calda, qua c'è un caldo bestiale qua. Infatti quando accendo la cucina devo aprire il lucernaio. Ah beh, certo. E te credo. Ah, io sto bene. È stato a posto. Sto bene qua. Non voglio rotolare i guglioni. Ma qualcuno ci avete nel palazzo? Sì, di Mau Mau. Capito. Poi sotto c'è un italiano, c'è un sassarese, beh. E ha un conosci tu, capito? Già te lo dico, guarda, capito? Già lo conosci tu sicuramente. E giù c'è, e qua su va giù lì, la porta a fianco, bisogna. Mau Mau e la Saburcia, la Tagliana Romatese, e sopra Romatese. Ho capito. A Giugavide, per casino. Vabbè, adesso te che ci vuoi con poi Tagliani, beh. Ah, non tengo nemmanco io. Vabbè, che tu la metti su così, Io al secondo piano abito. Secondo piano abito. No, la verità, sto bene qua. Sto molto bene anche. E io un'altra cosa, quando sei in casa doia, o lui, farò di voi. Ah beh, certo. Se non me lo sognavo prima di buoni antenne andata la gabbissuria, a che viene il rompimento di scatole, vera. Ma va via di un'altra gabbissuria, che mi sono tolto delle soddisfazioni. Vabbè. Su internet? Sì. Grazie, il viaggiatore di guida. Ora bisogna aprirlo. Ho dovuto rinforzare l'antenna, Perché? Il palo mi stava rompendo le scatole. Perché è attaccato con una staffa sopra la cosa. Sopra la staffa del condizionatore. E quindi si piegava un pochino. Allora ho preso, ci ho messo un altro pezzo di staffa attaccato al palo e cosa non lo fa più adesso, va bene. Non ho più problemi. Ma che usci? Non mi biadiano la situazione. Antenna manna, fatti così. Il vostro segno vivo pure se è leggera, però quando tira il vento c'era il suo peso, è venuto da Ivano. Ma tra un po' come ti goffo. Cusello. Sai, io lo so per affare, mi altro, ogni giorno, è sempre da fare. Faccio questa PlayStation, poi domani c'è un telefono da chiudere, da cambiare le LCD, e poi c'è da fare, boh, c'è un piccolo, comunque c'è molte cose da fare. Ma meglio così, Luco, tanto, non se ne regala nessuno di travaglio. È facile. È meglio che ti sia applicato con queste cose qua, almeno, cioè, tanto lavoro non ce n'è, un colpo a una parte, un colpo all'altra e uno si arrangia, e cosa devi fare? Ah beh, senza dubbio. Intendo anche Marazzucci sotto, ma non è visto tornare i tedeschi come sta rimanendo tutti, no? Ok dai, ti saluto, dai, buonanotte, io mi vado a dormire, cazzo, sono stanchissimo stasera. Ui. Dai, ci sentiamo domani, Lu, buonanotte. Ehi, ciao Anto, buonanotte anche a te. Purtroppo sono impegnato qua, sono fottuto danno, dai, a domani, ciao. Ciao, buonanotte.